cartellone di Elisabetta Fiorito. Ho oscurato il sole a mezzogiorno, chiamati fuori i venti ribelli, e fra il verde mare e la volta azzurra suscitata guerra ruggente. Al terribile e rombante tuono io ho dato fuoco e ho spaccata l'altera quercia di Giove con la sua stessa saetta. L'irremovibile promontorio ho scrollato e dalle loro radici svelto il pino e il cedro. Le tombe, al mio comando, hanno destato i loro dormenti, si sono aperte, li hanno mandati fuori. Così potente era la mia arte. E sentiamo questa voce riconoscibilissima. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Quando parliamo della tempesta, noi generalmente mettiamo questo file di archivio di Vittorio Gassman, così un po' per provocare chi interpreterà la tempesta e chi la sta interpretando in questa stagione teatrale, come un grandissimo attore di teatro che, al quale diamo il benvenuto qui a Cartellone, che è Umberto Orsini. Buongiorno. Buongiorno a lei. E Rolando Ravello come Calibano al teatro stasera Piccinini di Bari, e poi dal 24 novembre, quindi la prossima settimana, fino al 13 dicembre al teatro Eliseo di Roma. Umberto Orsini, che cosa vuol dire confrontarsi con Prospero? Ma confrontarsi con Prospero non è confrontarsi con un attore che l'ha fatto, ma confrontarsi con un personaggio che è talmente vario e possibile di interpretazioni, per cui confrontarsi un pochettino con se stessi, un personaggio che in genere si fa nella maturità, e io penso di avere abbastanza maturità negli anni perlomeno, e anche come esperienza teatrale, per fare di Prospero un percorso tortuoso in un personaggio che non è certamente tra quelli di Shakespeare a tutto tondo, ma pieno di sfaccettature, pieno di misteri, e lo lascio misterico così com'è nella scrittura. L'adattamento di De Rosa per lo spettacolo che noi stiamo portando in giro già da quasi un mese, che approda a Roma martedì, è uno spettacolo molto sfrondato di tante cose brutte di Shakespeare, perché non è mica detto che abbia scritto soltanto delle cose. Ai, questa è la prima volta che una persona dice brutte di Shakespeare, cioè osiamo contrastare il grande bardo. Beh, non è che osiamo contrastare, è che è stato scritto alcuni secoli fa per un pubblico che al Globe aveva la pazienza e anche la distrazione di stare a vedere uno spettacolo per 4 ore, perché stava in piedi, andavano fuori a bere la birra e poi dopo rientravano, e quindi in qualche modo gli spettacoli erano lunghi e in qualche modo ripetitivi, per come uno spettacolo che doveva colmare le lacune di presenza di persone nel pubblico, per cui in realtà se si stringe la storia si può stringere in 1 ora e mezza, così come noi l'abbiamo stretta, sfrondando di tante cose, ripeto, brutte anche. Non ci sono dei versi memorabili, tranne alcuni. Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Vedo il verso più famoso: noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, la nostra piccola vita è circondata da un grande sonno. Proprio attraverso questi due versi, De Rosa ha costruito uno spettacolo in cui non c'è la tempesta iniziale, che invece era famosa in alcuni spettacoli, tipo Peter Brook, che l'aveva fatta in maniera molto naif, molto suggestiva, Strader, che l'aveva fatto con i mezzi del piccolo teatro di allora, e quindi aveva fatto una tempesta col mare, col vento, con le fiamme. Noi invece una tempesta è un suono che arriva nella mente di una Miranda, figlia di Prospero, dormiente, che si sveglia da un incubo e dice al padre: ferma, se sei stato tu con la tua arte a provocare questi tuoni, questi lampi, questa cosa, frena la tua arte. E tutto si svolge in un luogo abbastanza ristretto. I personaggi della tempesta sono tutti riuniti come evocati, come degli incubi e come proprio gli incubi di Miranda, ma come nei sogni più interessanti i personaggi poi si materializzano e diventano personaggi veri. È un percorso estremamente, sembra tortuoso raccontarlo, ma molto semplice in palcoscenico, apprezzabile dal pubblico, tanto che il pubblico è molto avvinto come un film di Lynch, dove tutto non è apparentemente plausibile, ma poi diventa plausibile e tutto si spiega con la scena successiva. Non è mai chiaro nella scena in cui si sta vedendo, si aspetta sempre la scena dopo per chiarire la scena prima. È un thriller in qualche modo, ed è lasciato anche abbastanza aperto. Non è una strada percorsa sempre fino alla fine, è una strada che è un percorso che prende varie strade. E come c'è un altro verso famoso nella Tempesta che dice: questo è un labirinto, e il nostro è proprio un labirinto teatrale. Quindi un labirinto, anche una tempesta mentale. Calibano, Rolando Ravello, che cosa vuol dire fare Calibano oggi? Esistono i mostri deformi anche nella nostra società? Calibano è una bella sfida. In questa versione della Tempesta è un salto mortale triplo, perché rispetto al servo mostro descritto nella Tempesta, qui Andrea De Rosa mi ha chiesto di interpretarlo come una specie di angelo, una persona che non ha il confine tra la pulsione e l'azione. Lui non capisce di agire negativamente, non capisce di fare del male, agisce in base a ciò che sente. E Andrea De Rosa si è ispirato ad un personaggio che ha conosciuto nella sua infanzia per impostare questo Calibano, che è un po' quei matti di paese, quelle persone che nascono ingenue e vivono ingenue avendo dei rapporti con il sociale senza filtri, no? E questa strada abbiamo cercato di seguire, che è strana perché rispetto alle battute per esempio di Calibano, che alcune sono molto cattive invece, alla fine credo però che il risultato siamo riusciti a ottenerlo tutti insieme, che comunque questo Calibano in qualche modo ti ci affezioni, ti fa tenerezza, ti fa dolcezza, mentre in realtà nel testo originale questo non accade. Allora, ricordiamo La Tempesta, regia di Andrea De Rosa, questa sera fino a domani al Teatro Piccinini di Bari, poi dalla prossima settimana dal 24 novembre al 13 dicembre approda a Roma al Teatro Eliseo. Qual è il verso più bello di Calibano, Rolando Ravello? C'è la parte forse che mi piace di più, è la parte in cui lui inveisce contro Prospero senza volerlo fare, però è il modo che lui ha per cercare di interagire con Prospero, ormai che in qualche modo gli ha tolto la sua libertà, quindi gli dice tutti gli umori più pestilenziali che il sole succhia da paludi, pantani e stagni ricadano su di te, ti infettino e ti riducano centimetro per centimetro tutta una piaga, però, e così via, sono in ricerca, così... ricerca la maledizione con parole forbite che gli ha insegnato Prospero, a me piace da morire. Allora, abbiamo sentito Rolando Ravello, Calibano, Umberto Orsini, Prospero, Teatro Piccinini di Bari, Teatro Eliseo di Roma, La Tempesta di William Shakespeare. Era una notte che faceva spavento. Sì, era una notte veramente sfantosa. Sono. Ma che minghia è la soprano? È una donna che canta! Ah, una donna che canta! Ci vuole una donna che canta! Un tonno con panna, una donna che sa. E sicuramente andiamo in Sicilia, almeno sul palcoscenico, perché il Teatro Stabile di Catania rappresenta il birraio di Preston, che è tratto da un romanzo di Andrea Camilleri. Lo rappresenta però in Veneto, perché questa sera è al Teatro Nuovo di Verona e anche domani pomeriggio alle 16, poi dal 24 novembre sarà a Bologna all'Arena Il Sole. E buongiorno a Mariella Lo Giudice e buongiorno a Giulio Broggi, i due protagonisti di questo testo di Camilleri. Chiedo subito a Giulio Broggi quale personaggio interpreta e che cosa l'ha colpita di più. Allora, io nel lavoro interpreto la parte del delegato Puglisi, che è quello che indaga sull'incendio di un teatro fatto da un mazziniano venuto da Roma. Un incendio del teatro che tra l'altro causa anche la morte di più persone, perché con il vento che c'era l'incendio si è allargato e ha preso anche delle case civili. E questi fatti si svolsero veramente a Caltanissetta tra il 1875 e il 1876, Giulio Broggi? adesso non so che il romanzo comunque trae lo spunto da un fatto realmente accaduto. Non lo so se ci sia stato anche l'incendio del teatro, questo non lo so. So che comunque c'è stata questa cosa, che questa prepotenza, diciamo, da parte di un prefetto che toscano, che agiva in Sicilia e che ha voluto imporre quest'opera, tra l'altro una brutta opera, l'ha voluta imporre così in un paese della Sicilia, e questa imposizione comunque ha creato appunto questi subbugli, questo malcontento, questa cosa e questo disastro che poi è successo. Mariella Lo Giudice, lei che parte interpreta? Sì, allora no, io volevo aggiungere che il teatro di Caltanissetta si chiamava Teatro Margherita, che è stato da qualche anno riattivato. E poi che questo paese, dove il prefetto appunto voleva rappresentare quest'opera orrenda, era il birraio, diciamo, il birraio di Preston, nell'opera di Preston, di orrenda, sì, realmente esistita, di Ricci, era comunque un paese di grandi amanti della lirica e quindi con un orecchio molto raffinato. Io interpreto due sorelle, una che muore nell'incendio appunto del teatro durante una unica notte d'amore, dopo 5 anni di vedovanza strettamente osservata, muore soffocata con il proprio amante, e la sorella di lei che sollecitata dal delegato pugliese interpretato da Giulio Brogi va a vedere che cosa è successo a questa sorella, e la trova lì soffocata sul suo letto d'amore e di morte. A quel punto è una scena molto drammatica che faccio con Giulio, però in tutto lo spettacolo vige comunque il sapore della commedia e del divertimento. Come prendono gli spettatori di Verona questi fatti siciliani del secolo scorso? Si identificano, si medesimano nei protagonisti, Mariella? Guarda, dagli applausi sembrerebbe di sì, bisognerebbe chiederlo a loro, ma se è vero che l'applauso è il risultato, insomma, della piacevolezza di una serata, pare di sì, che siano molto soddisfatti. Abbiamo degli applausi la sera e quindi va bene. Quanto c'è di siciliano in questo testo, Giulio Brogi? Quando c'è di siciliano, c'è tutto di siciliano, però è un siciliano, a mio avviso, che si allarga, voglio dire, che si propone anche ad altre culture, ad altre civiltà, comunque, perché è vero che il testo è soffuso così da momenti di ingerenza mafiosa, ma si sa che il fenomeno mafioso ormai non appartiene più alla Sicilia, è un fenomeno ormai mondiale. E quindi si parte dalla Sicilia, ma comunque coinvolge il resto del paese, il resto anche, a mio avviso, dell'Europa. Quindi si parte dalla Sicilia per trovare qualcosa che è internazionale ed è umano a tutti i livelli. Ricordiamo Il birraio di Preston, presentato dal Teatro Stabile di Catania al Teatro Nuovo di Verona questa sera alle ore 21, domani ultima replica alle ore 16 e poi dalla prossima settimana a Bologna all'Arena Il Sole. Allora, un testo per riscoprire Andrea Camilleri. In un vecchio palco della Scala, nel gennaio del 93, spettacolo di gala, signore in décolleté, discese da un romantico coupé. Quanta gente nella sala, c'è tutta Milano in gran soirée. C'è il maiale, viale, via, via. C'è un bel gatto, gatto, gatto, gatto, l'asino, nel, nel, nel, nel, c'è la capra, capra, capra, in un vecchio palco della Scala. Cos'è questo Oblivion Show, Francesca? Ce lo vuoi descrivere? Oblivion Show è uno spettacolo musicale, è un circo volante in cui noi giochiamo con la musica, si susseguiranno blob di canzoni e altre canzoni riarrangiate a colpi di cazzotti di autori italiani, per cui quello che ne risulta è un gioco di parole molto divertente. Ci sono le parodie, noi parodiamo tutto quello che ci passa sotto mano e per cui vedrete anche nello spettacolo quello che è stato un po' il successo su YouTube nell'ultimo tempo, e cioè I Promessi Sposi in 10 minuti e tanto altro. Noi mixiamo stili diversi, per esempio Ligabue a tempi di gioventù cantava con i Platters con risultati allucinanti. Insomma, un po' i Frank Zappa del teatro, ecco, mettete insieme cose assurde, Elio e le storie tese, insomma, esatto, inversione teatrale. Inversione teatrale. È proprio dei Promessi Sposi in 10 minuti che noi vogliamo parlare. 150.000 contatti nei primi due mesi, 350.000 visualizzazioni totali su YouTube. Beh, allora a questo punto sentiamo un pochettino come l'avete ridotto questi Promessi Sposi in 10 minuti. Lago di Como, inizia quel domo che ti devasta con i suoi 38 capitoli. Nel primo si legge di un uomo che arriva pian piano ed un abbondio che un po' circospetto ritorna in città. Bravi, bravi, non te l'aspettai, bravi, come te ne andavi, siamo i bravi, passiamo cattivi, fatti pure il segno della croce, tanto sei da solo qui. Ma io vorrei sapere, Francesca, per caso Umberto Tozzi o Mina l'hanno sentiti questi bellissimi brani arrangiati in questo modo? Non lo sappiamo ancora, non lo sappiamo. Speriamo di sì, speriamo di sì. Speriamo che attraverso Radio 24, diciamo così, li sentano. Allora, ci sono praticamente due voci femminili e tre maschili, giusto? Esatto, siamo una Cristiana più maschietti. Tu hai lì vicino qualche maschietto di questi Oblivion Show? Sì, qui ho Lorenzo e Davide, passo Lorenzo. Lorenzo. Pronto? Buongiorno, invece del quartetto Cetra, il quintetto Oblivion, potremmo definirlo così. E quanto allenamento ci vuole per cantare in modo preciso? Poi avete diverse tonalità, immagino, no? Tra di voi? Beh, insomma, essendo uno spettacolo così di cabaret, di parodie, la prima regola delle parodie è fare i brani bene, come se fossero dei brani seri, insomma, originali. Quindi Promessi Sposi è un piccolo musical, va cantato come fosse un musical. Abbiamo nello spettacolo, senza rovinare troppe sorprese, ma un brano hip hop, e quindi anche in quel caso abbiamo dovuto lavorare tanto su quella vocalità. Poi c'è lo stile un po' antico del quartetto Cetra, ci sono tante i sardi, i tenore sardi, un canto alpino, insomma svariamo con tanti suoni con la voce, ed è la cosa divertente anche, insomma il gioco è un gioco anche e soprattutto musicale. Per fare questo ovviamente ci vuole un grosso studio, una grossa preparazione, ma va bene così, insomma, nel nostro lavoro, ecco, anche un chirurgo che deve asportare un rene deve essere ben preparato. Ma ecco. Nascete come attori o come cantanti? Abbiamo anche provenienze diverse, nel senso che tutti ci siamo conosciuti all'Accademia di Musical e abbiamo fatto tante tournée singolarmente come interpreti di musical, quindi mi verrebbe da dire entrambi. In realtà c'è poi fra noi cinque, io per esempio sono il più musicista, io nasco come musicista, come chitarrista, poi come cantante e poi solo in tarda età sono arrivato in teatro, mentre i nostri altri colleghi arrivano dal teatro di strada anche, Francesca è una ballerina di tip tap, quindi abbiamo varie caratteristiche nostre, comunque siamo tutti accomunati da questa lunga esperienza nel campo del teatro musicale, dove quindi cantare e recitare sono due due cose che si fondono, ecco. Allora, Oblivion Show, ricordiamo, questa sera a Mestre, al Teatro Tognolo, poi il 25 al Teatro San Giovanni Bosco di Edolo, in provincia di Brescia, e dal 26 novembre al 6 dicembre al Teatro Ciac di Milano. E vabbè, ma allora vogliamo ascoltare un altro pezzettino di questi Promessi Sposi in 10 minuti? Trova noi bravi a rapire Lucia, ma lei in casa non c'è. Sono dal prete a sposarsi a sorpresa, ma in qua. Lucia, non perderti d'animo. Lucia, non perderti d'animo. Lucia, non perderti d'animo. Sarò stasera, fuggite a Monza, che la monaca lo sa, è il posto giusto, con quella nebbia, ti ci nascondi e ci ritroveremo là. Scrive Manzoni per i secchioni, che insoffensivi all'assalto al vicere. Renzo si esalta nella rivolta, chi se ne frega, c'è una che frega, ma lei chi è? Sono la monaca, ma non so suora perché mi piace fare l'amore come nessuno lo fa nella canonica. Bravi, bravi, non te l'aspettavi. Bravi. Siamo gli altri bravi, siamo i bravi, ancora più creativi. Fatti pure il segno della croce, tanto sei da sola qui. Ci mandò l'illuminato che ci ha chiesto di rapirti e lasciarti chiusi i capi, che così nessuno può sentir, proprio come un uccellin del castello, del castello. Stato può sentire quale voto la Madonna sto per far. Nulla do più se mi salva Gesù. Che cosa c'è? C'è che io son lì nominato col te, c'è che ero uno prepotente che ha offeso tanta gente, ma il cuore mio si pente se ci sei. Tra gli arcivescovi di Roma rappresento il top, e a Milano è un pezzo che ci sto, persino l'innominato me lo son cambiato, son Borromeo, per meglio del Giubileo. Ma tutti feste a favola e a Don Rodrigo in più, gli spunta un po' una bustola ed arriviamo al clou. E tra le muffe, i buconi e i danti, e quattro fanti così l'antiche vecchi, all'Azzaretto vicino a Cantù, si incontrano tutti laggiù. Da una lacrima sul viso ho capito che c'ho un mese. Caro amico ti schivo, se no ti contraggo un po', e siccome sei molto malsano, al fin ti perdonerò. Renzo! Lucia! Ho fatto un voto di castità permanente, però purtroppo ho già cambiato idea, ma non posso farci niente. Vorrei entrare fra Cristoforo. Sono qua giù dietro al semaforo, il voto sciolgo volentieri, grazie ai miei superpoteri e la fede ai suoi misteri. E adesso andiamo a Lubriano, in vicinissima Viterbo, tra Lazio e l'Umbria, dove si parla di teatro, ma di teatro abbastanza particolare, di un teatro che diventa incivile. Una rassegna per parlare di un'Italia dimenticata, rimossa e difficile. Il sottotitolo addirittura è «Come a dire che anche la cultura può creare dinamismo ed economia». Insomma, una rassegna che prende il via questa sera alle 21 all'M Teatro con lo spettacolo Lampedusa è uno spiffero in senso lato ovviamente. Gianni Abate, direttore artistico, che cosa volete dire con questa rassegna? Allora, salve. Stiamo parlando quindi di un teatro necessario, fatto di impegno civile, artistico. E con questa rassegna noi vogliamo entrare nel vivo di questi argomenti che vengono dibattuti, che ci vengono proposti dai media dalla mattina alla sera forse, e anche rimossi dal nostro cervello, perché non possiamo tenere in memoria tante di quelle cose, e quindi il teatro secondo me è uno di quei mezzi che possono assolutamente approfondire e far lavorare dentro di noi queste problematiche, facendole rimanere all'interno e quindi digerire più facilmente che le notizie che ci passano dalla mattina alla sera davanti agli occhi e per le orecchie. Quindi Lampedusa è uno spiffero perché fa entrare gli immigrati praticamente. Lampedusa è uno spiffero perché fa entrare gli immigrati, ecco, parliamo quindi di i clandestini. Esatto. È uno spettacolo quindi che affronta questo tema, ma anche come dire, in una maniera abbastanza ironica, se possiamo dire, e leggera, se possiamo dirlo ancora, proprio perché diciamo sono argomenti abbastanza forti, però trattati anche in maniera tale che li possiamo recepire con più semplicità, ecco, e capirli e approfondirli meglio. Robinsonade invece sabato prossimo a Capotrave, di che cosa parla? Stiamo parlando quindi della postmodernità, stiamo parlando, la scenografia dice tutto, perché è un Robinson che si trova su di un'isola fatta di tre strati di sacchetti di plastica. Quindi in mezzo alla monnezza, mentre prima, come si direbbe volgarmente, perché mentre prima Robinson Crusoe stava ritornava alla natura, invece stavolta la natura non esiste più. Quindi è più attualità di questo, ci ritroviamo di nuovo a trattare un tema scottantissimo. 50 ecco. Lire invece sabato 5 dicembre. Allora, 50 lire, passiamo a un argomento del passato ma di grande attualità, ovvero delle fabbriche che chiudono. Siamo a Civita Castellana, dopoguerra, crisi quindi, e a questo punto gli operai e tutta una città, Civita Castellana, cercano di tenere in piedi le fabbriche anche facendo una colletta e quindi autogestendo queste fabbriche. È una cosa veramente singolare. Particolare. Poi abbiamo domenica 13 dicembre la Strada Bianca, che è un progetto, storie e racconti elaborati dai partecipanti al laboratorio di scrittura. Io la interrompo su questo perché invece voglio andare a parlare di sabato 19 dicembre con Sangue dal Naso, Scuola Diaz, Genova 2001. Esatto, anche questo è di enorme attualità, in quanto non si finisce di parlare di questo famoso G8 a Genova 2001, perché viene continuamente aggiornato. Difatti lo spettacolo viene continuamente aggiornato diciamo quello, gli aggiornamenti che man mano vengono anche dalla stampa, da quello che succede, ecco, dalle varie sentenze eccetera eccetera, e l'artista Andrea Maurizi, che ha creato questo spettacolo, diciamo lo aggiorna di volta in volta, quindi non è mai lo stesso spettacolo perché viene sempre aggiornato. Allora ricordiamo, insomma, tutto questo avviene sempre a Lubriano, esatto, Lubriano, Teatro dei Calanchi, e noi siamo l'officina culturale della regione Lazio, i porti della Teverina. Quindi noi ricordiamo che ogni sabato da oggi a Viterbo, a nord di Viterbo, a Lubriano, come ci ha detto proprio lei prima, fuori onda, bisogna uscire ad Orvieto per chi viene da nord o da sud sull'autosole, oppure prendere la Cassia Bis da Roma, e alle 21 tutti gli spettacoli? Gli spettacoli, tranne la Serata Bianca che è domenica 13, quindi tutte le settimane il sabato, tranne domenica 13 che è alle 17:30 la Serata Bianca. E se il teatro diventa incivile, per parlare di un'Italia dimenticata, rimossa e difficile, Lubriano, Viterbo, ore 21 tutti i sabati. Grazie. Verso le 12 del mattino, dalle parti del Parc Monceau, sulla piattaforma posteriore di un autobus quasi completo della linea S, oggi 84, ho visto un tizio dal collo molto lungo che portava un cappello floscio con una cordicella intrecciata al posto del nastro. Questo tale di colpo interpellò il vicino dicendogli di smetterla di pestargli i piedi ogni volta. Un episodio banalissimo, quello che sentite raccontare, talmente tanto banale che Raymond Queneau si divertì a farne un esercizio di stile. Esercizi di stile è stato un capolavoro della letteratura mondiale e da ben vent'anni, è sul palco. Perché? Perché si alternano tre artisti eccezionali, Ludovica Modugno, Francesco Pannofino e Marco Guadagno, e raccontano questa storia banalissima, un incidente su un autobus a Parigi, interpretandolo e reinterpretando questo episodio in modo alle volte molto molto molto alto, con un linguaggio addirittura incredibile, e poi anche un po' facendo del cabaret. Ma sentiamo come viene interpretato durante lo show. E allora è arrivato l'autobus, e allora ci sono montato su, e allora io ho visto un cittadino Gesù con un collo lungo e col cannone sopra il cappellino. Allora lui si mise a protestare contro il vicino che gli pestò allora i suoi piedi. E allora su di se ne andò a sedere, e allora più tardi lo rivendicò, e allora se ne stava con il suo compare, e allora gli diceva suo compare che doveva far mettere una troppa. E questa è la versione un po' francese, cabarettistica. Ricordiamo che in un autobus nell'ora di punta un tizio litiga con un vicino, poi prende posto, due ore più tardi lo si rivede davanti alla stazione mentre parla di moda maschile con un amico. E questi gli esercizi di stile saranno al Teatro della Cometa a Roma fino al 6 dicembre. E abbiamo sentito la versione francese, ma sentiamo la versione romanesca. L'autobus arrivò, dice ci sono montato su, dice ho visto un cittadin che mi colpì, dice ci ho visto un cittadin collo lungo fino a qui, dicevi di altre silla treccia intorno al cappellin, dice si è messo a baccaia contro il vicino che gli acciaccò, dice i suoi mie, dice che se ne hanno a sedi. Ricordiamo allora al Teatro della Cometa fino al 6 dicembre esercizi di stile di Raymond Queneau con Ludovica Modugno, Francesco Pannofino e Marco Guadagno, uno spettacolo veramente esilarante. E parliamo adesso di un progetto editoriale del nostro gruppo in allegato con Il Sole 24 Ore. A partire da ieri 20 novembre per 4 venerdì è in tutte le librerie La parola dipinta, la Bibbia nella Cappella Sistina, un'opera unica, nuova, originale in 4 volumi per scoprire cosa ha ispirato la più grande opera d'arte di tutti i tempi, da Michelangelo ai più grandi artisti del 400 che passo per passo hanno dato forma e colore alle sacre scritture. Sentiamo Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani. Siamo con Michelangelo nella volta della Sistina. Sappiamo che per lavorare si fece costruire un ponteggio straordinario, un vero e proprio capolavoro di tecnologia per l'epoca. E lui per 4 anni è stato su questo immenso impalcato a lavorare, a dipingere. È stato detto, lo sapete bene, il carattere solitario, misantropo, intrattabile e incontentabile di Michelangelo. non tollerava collaboratori, non aveva e non ha mai avuto allievi. Le uniche maestranze che lo aiutavano erano quelle che preparavano giorno per giorno l'intonaco per l'affresco e i pochi e anonimi operatori che lo aiutavano nei servizi, diremo oggi, logistici: trasportare i materiali, mettere in opera i cartoni, preparare i colori, eccetera. Lui era solo. Ed è stata una fatica bestiale, 4 anni a dipingere la volta della Sistina, nel caldo terribile dell'estate romana, nel gelo dell'inverno, da solo. Tanto è vero che lui ha raccontata questa sua esperienza. Negli archivi di Casa Buonarroti a Firenze si conserva un foglietto grande come mezza cartella dove Michelangelo ha fatto un'autocaricatura. In questo foglietto si vede un omino steso su un impalcato, tutto rattrappito, con un pennello in mano che sta dipingendo qualcosa. E poi c'è una poesia di sua mano che dice: «Io mi son fatto un gozzo in questo stento, come fa l'acqua ai gatti in Lombardia, o di qual'altro paese che si sia, che a forza il ventre appicca insino al mento, la pancia mi tocca il mento, la barba al ciel e la memoria sento in sullo scrigno». La memoria, nel linguaggio anatomico medico dell'epoca, era la nuca. In sullo scrigno, lo scrigno sono i reni. La nuca gli toccava le reni, è lui che parla di se stesso in questa poesia. E poi c'è un verso finale bellissimo, glorioso, che dice: «E il pennello, gocciando tuttavia, mi fa sul viso un ricco pavimento». Lui sta lì a dipingere e i colori della Sistina, il lapislazzulo, il cinabro, il verde, gli sbrodolano sulla faccia. Ricordiamo allora la parola dipinta, la Bibbia nella Cappella Sistina, il progetto editoriale del gruppo Sole 24 Ore, che a partire da ieri 20 novembre per 4 venerdì è in tutte le librerie e in allegato con il quotidiano. Piccadilly, Piccadilly Circus, il posto più amato dagli italiani a Londra, e anche ospita la Royal Academy. Ci colleghiamo quindi con Michela Daghini, la nostra corrispondente doc per Cartellone. Buongiorno Michela. Buongiorno a te Elisabetta e a voi ascoltatori, da un autunnale Londra. Da un autunnale Londra, e sappiamo che la Royal Academy c'è in Cartellone, possiamo dirlo, una mostra molto importante. È vero, è una mostra molto bella ed è dedicata a una delle figure certamente più importanti oggi nel panorama dell'arte contemporanea internazionale, che è Anish Kapoor, anglo-indiano, ed è impressionante il numero delle mostre che ha realizzato in tutti i più importanti musei del mondo, proprio tutti, e continua a realizzare opere destinate alla storia dell'arte. Il bello delle sue mostre è che sono molto apprezzate dalla critica, ma soprattutto dal pubblico, perché lui crea sempre queste sculture davvero spettacolari per dimensioni, per colori, per concetto naturalmente, ed è davvero un piacere, è uno spettacolo vederle, quindi c'è sempre moltissima gente curiosa e interessata appunto ad andare a vedere le sue cose. C'è, come dici tu, una mostra adesso alla Royal Academy of Arts con queste sue opere, alcune sono nuove, alcune sono invece di quelle già presentate all'estero, ma sono comunque tutte bellissime. Ecco, c'è un percorso che si fa in questa mostra che è allestita fino all'11 dicembre, e tra i quali percorso in cui lui presenta anche un albero di Natale abbastanza particolare, insomma. È vero, quella che citi tu è una gigantesca scultura che accoglie i visitatori nella corte della Royal Academy, quindi ancora prima di entrare nella galleria. La Royal Academy, per chi non ci fosse stato, è in una delle zone più belle di Londra. Tu citavi Piccadilly, e vicinissimo a Piccadilly Circus, ed è nella Burlington House, che vanta alcune tra le gallerie e gli interni più belli della città, ed è molto amata dai londinesi. È un bel luogo anche di incontro con questa ampia corte, con le grandi sculture, dove è bello darsi anche appuntamento e bere un caffè o un aperitivo prima o dopo la mostra, quindi fuori. E c'è questa gigantesca scultura a cui tu fai riferimento, che è una sorta di albero di Natale, in effetti, è fatta di numerose sfere riflettenti che vanno a comporre quello che si chiama Tall Tree and the Eye, che appunto campeggia nel cortile antistante, ricorda un festoso albero di sapore natalizio. Ogni sfera non soltanto si riflette su quella a lei più vicina, ma riflette anche la corte dell'Academy, chi ci passa davanti, chi si sofferma a fare le foto, quindi si immortala riflesso in queste sfere, e poi si vede anche il cielo riflesso sempre nella scultura, che fa anche da sfondo naturale all'opera, ed è davvero bellissimo. Quindi questo è l'esordio, l'inizio, ciò che accoglie il visitatore, ed è davvero molto d'effetto. Ecco, ma qual è l'opera che ti è piaciuta di più, visto che te sei andata a scrutare per noi questa mostra? Ce ne sono due forse che vorrei citare. Una è Shutting in the Corner, sparando nell'angolo, già esposta al MAC di Vienna, ed è questo cannone che spara a intervalli regolari proiettili di cera rossa, di questo rosso scuro che è il colore preferito di Kapoor. C'è un marchingegno automatico che riscalda la cera, carica questo cannone, e poi questa enorme palla di cera rossa viene sparata sul muro, e ripetendo in continuazione questa operazione, naturalmente la cera si accumula sul muro, quindi l'opera continua ad evolversi, cambia, e poco a poco la scultura prende corpo fino ad assumere una forma definitiva, che a fine evento, quando chiuderà la mostra, sarà quella appunto nella sua ultima versione. Dunque chi visita la mostra oggi vedrà qualcosa di diverso da quello che vedranno gli spettatori l'ultimo giorno dell'esposizione. L'altra creazione di particolare impatto è questa massa rossa lunga 20 metri, pensate, le dimensioni sono sempre davvero grandi, di vaselina mescolata con cera e pigmenti rossi, e questa immensa massa, alta quanto le porte delle ampie sale della National Academy, dunque almeno 5-6 metri, avanza molto lentamente in maniera impercettibile, lasciando una traccia del passaggio sulle cornici delle porte che attraversa e che sono appena più strette. Dunque tutti sono lì che aspettano che questo gigantesco, qualcuno lo considera un vagone di cera rossa, si muova e lascia tutte queste impronte sulle porte, sui muri, ed è davvero anche questo di grande effetto, anche per il colore che hanno queste sculture. È da vedere, è difficile spiegarlo, ma insomma spero di aver dato almeno un'idea di queste sculture. No, l'hai data benissimo. Ci sono molti italiani che vengono a visitare questa mostra, com'è recepita? Perché siamo sempre un po' la provincia dell'impero per quanto riguarda l'arte figurativa innovativa. È vero, italiani a Londra, come sai, ce ne sono sempre moltissimi, e immagino molti si stiano preparando a venire per Natale, anche perché Londra sotto Natale, lo sapete già, le luci sono accese adesso ed è davvero suggestiva, romantica, luci ovunque, soprattutto in centro, e gli italiani lo sanno bene e ogni anno vengono a visitarla. Certo, anche alle mostre ci sono sempre molti italiani, ce ne sono molti qui, ce ne sono molti e anche soprattutto anche molto giovani alla Tate Modern, dove peraltro i saloni, molti dei saloni, quasi tutti, sono gratuiti, e quindi anche i ragazzi che si avvicinano per la prima volta all'arte sono sempre incuriositi e sono anche i benvenuti. Quindi è una città che davvero accoglie tutti con grande entusiasmo, e gli italiani lo sanno bene. E noi ci risentiremo per le nostre puntate natalizie, così ci racconterai tutte le chicche di Londra. Ricordiamo però, fino all'11 dicembre alla Royal Academy a Piccadilly Circus a Londra, Anish Kapoor. Grazie Michela. Grazie a voi. E vediamo adesso cosa c'è in programma per questo weekend. E ieri si è svolta la prima mondiale di Ziovania di Anton Chekhov al Teatro Franco Parenti di Milano, in russo, con i sottotitoli in italiano. Poi abbiamo a teatro con mamma e papà, il Sistina apre le sue porte la domenica mattina alle 11, prezzi speciali per le famiglie, commedia musicale Sette Re di Roma, scritta da Gigi Magni con musiche di Nicola Piovani. Ricordiamo, fino al 21 novembre lo spettacolo Stomp sarà al Gran Teatro di Padova, un modo per divertirsi con tutte le percussioni possibili e immaginabili, dai bidoni della spazzatura ai pneumatici, lavandini, scope e spazzoloni. Invece andiamo a mangiare in provincia di Forlì, a Sogliano al Rubicone, dove c'è la fiera del formaggio di Fossa. Dal 21 novembre fino alla prima settimana di dicembre il borgo medievale è avvolto dai profumi del formaggio di Fossa, nella tradizionale fiera dedicata al prodotto marchio DOP. tra quelli più apprezzati ed invidiati della terra di Romagna. E sempre in Emilia Romagna andiamo invece a Rimini, a Mondaino, Fossa, Tartufo e Cerere, in due domeniche alla scoperta dei tesori dei ghiottoni, Tartufo e formaggio di Fossa, in una sola festa per il Parato, 22 e 29 novembre. Invece all'Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21, domenica 22 novembre, una notte al Folk Studio, omaggio a Giancarlo Cesaroni. E per oggi, anche per questa puntata, è tutto. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it. Una buona giornata a tutti.